Questa notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Bentornato, allora. Presidente. Quanti applausi, mi avete scambiato per Grillo? La vedo sulle piazze che Grillo furoreggia e mi impaurisco, devo dire, mi fa veramente paura. Eccoci qui, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, con questo sipario che cala adesso ormai tra qui e mezzanotte su una campagna elettorale, possiamo dire molto vivace, però forse con più insulti che Europa in questa campagna, un po' da parte di tutti i principali leader politici. È proprio una campagna elettorale che dovrà, diciamo, mirare al voto che domenica indicherà la rotta italiana nell'Unione Europea. Che strada deve prendere l'Italia in Europa e che Europa deve essere per l'Italia? E anche un test per il governo di Matteo Renzi. Proprio su questo vorrei sondare un po' la vostra opinione, cioè ritenete che il voto di domenica delle europee possa in qualche modo incidere poi sulla politica interna e quindi anche sul governo, sugli equilibri della politica italiana? Questo è lo spunto che vi lancio questa sera. Potete rispondere sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sempre a vostra disposizione 24 ore su 24, 365 giorni su 365, invece messaggi quando siamo in diretta, gli sms al 349 238 6666. Quindi questa è la domanda: secondo voi inciderà questo voto, il risultato di questo voto per le europee anche sulla politica italiana? Bene, mentre voi ci pensate e mentre vi tengo in serbo alcuni ospiti per questa sera, io direi come sempre di riassumere la giornata di oggi. Elezioni europee, rush finale nelle piazze prima del silenzio elettorale che scatta a mezzanotte. Renzi a Firenze sottolinea che gli 80 euro sono solo l'inizio. Grillo a San Giovanni tuona contro la peste rossa. Berlusconi a Milano avverte: se vince Grillo si rischiano disordini. Ilva per i lavoratori morti a causa dell'amianto, condannati 27 ex dirigenti anche della vecchia Italsider. Ucraina, ancora sangue nel paese. Putin accusa: è guerra civile, ma dice: rispetteremo il voto. Palermo ricorda le stragi del 92, ragazzi da tutta Italia in ricordo di Falcone Borsellino, cerimonia, Lucciardone e corteo. Truffa ai danni dell'INPS, 3.000 denunciati in Calabria e danni per 13 milioni. Sport, ciclismo, 13ª tappa del Giro d'Italia, vinta da Canola, la maglia rosa rimane a Rigoberto Urán. E partiamo quindi dalle ultime ore, ultimissime, vi dicevo, di campagna elettorale per le europee. Da mezzanotte scatta il silenzio elettorale per tutti i candidati. I leader dei principali partiti politici italiani sono impegnati, vi dicevo, nel rush finale: Renzi a Firenze, Grillo a Roma in piazza San Giovanni, Berlusconi a Milano nella sala congressi della provincia. Allora partiamo dal Presidente del Consiglio. Ricorre alle slides Matteo Renzi nell'ultimo giorno di campagna elettorale. Il Premier convoca una conferenza stampa a Palazzo Chigi per illustrare le iniziative dei primi 80 giorni di governo. L'Italia si salverà solo con una netta politica di riduzione delle tasse. Gli 80 euro non sono né una mancia né un'elemosina. Il voto per le europee, ribadisce, non è un test per il governo. In Italia c'è un referendum diverso, c'è un ballottaggio diverso. Tra chi ormai è convinto che il nostro paese non abbia alcuna chance di incidere nei grandi percorsi mondiali, nei grandi processi continentali, e chi invece con molta umiltà ma anche con determinazione ci crede. È il ballottaggio tra la paura e la speranza, è il ballottaggio tra chi vuole semplicemente protestare, magari insultare in modo liberatorio, e chi invece vuole tirarsi sulle maniche perché le cose cambino concretamente. Berlusconi e Grillo hanno fallito, dice il Premier. Grillo ha mandato in Parlamento parlamentari che si sono rinchiusi sui tetti e alle riforme proposte ha risposto con una pernacchia. Berlusconi ha fallito invece alla guida del paese. E Renzi chiude la campagna elettorale nella sua Toscana, prima a Prato, poi in serata a Firenze. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora invece Berlusconi. Se vincesse Grillo non posso immaginare cosa succederà. Si tratta di una presenza inquietante, potranno succedere disordini inquietanti. Così ha dichiarato oggi il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi a poche ore dalla chiusura della campagna elettorale per le elezioni europee di domenica prossima. Grillo non fa più ridere, fa e deve fare paura, ha insistito l'ex premier. Il voto a Grillo è assolutamente pericoloso, dice le stesse cose che diceva Hitler nel 1933. Un'altra stoccata è arrivata anche al governo Renzi. Questa legislatura non arriverà al 2018, ha detto Berlusconi, se la cura economica è sempre la stessa della sinistra, tra un anno e mezzo si torna alle urne. Infine un appello agli elettori che devono andare a votare per far sì che non accada più che al governo ci vadano dilettanti o incompetenti. Dare un voto ai piccoli partiti significa gettarlo dalla finestra, ha concluso il leader di Forza Italia. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora invece con Grillo. Facciamo paura, ma che paura, non facciamo vendette, faremo un processino, ma un processino online per divertirci anche un po'. Siamo stati 20 anni a essere presi per il culo, bistrattati, umiliati, depredati, ce l'hanno fatti di tutti i colori. Abbiamo almeno il diritto a uno sputo digitale in rete e faremo... uno sputino digitale, non verrà fatto niente di fisico, andremo a vedere un po' i loro conti, visto che per anni hanno controllato i nostri, Dio mio, allora io hanno fatto il redditometro su di noi e facciamo un bel politometro su di loro a vedere dove vanno a finire i nostri soldi, ma è un gioco, è un algoritmo. E questo per quanto riguarda, dicevo, gli ultimi colpi della campagna elettorale. Poi vi ricordo che Radio 24 seguirà con approfondimenti speciali le elezioni europee, appuntamento già da domenica sera dalle 23 all'1. Adesso passiamo a un altro tema, il processo sull'Ilva. Oggi è stata pronunciata la sentenza per i lavoratori morti a causa dell'amianto. Il Tribunale di Taranto ha condannato 27 ex dirigenti dell'Ilva, però di questo argomento ne parleremo più tardi. Occupiamoci ora di una maxi truffa all'Inps in Calabria, è di 13 milioni di euro il danno stimato e sono 3.000 i falsi braccianti denunciati. Una truffa ai danni dell'INPS per 13 milioni di euro, denunciati 3.000 falsi braccianti e altre 30 persone, le menti dell'imbroglio. Tutto avviene a Cosenza e provincia tra il 2006 e il 2011. La Guardia di Finanza ha scoperto che alcune aziende agricole, attraverso falsi documenti, certificavano attività lavorativa inesistente per far ottenere a falsi braccianti le indennità di disoccupazione e maternità. Le aziende erano concentrate nella zona di Corigliano Calabro, Rossano, Cassano allo Ionio e comuni adiacenti, centinaia di lavoratori che in realtà lavoravano solo sulla carta, presso terreni di ignari o addirittura inesistenti committenti. Facendo il raffronto è emerso che le aziende impiegavano un numero eccessivo di operai su terreni che per dimensione o tipologia sono risultati inconsistenti. I finanzieri hanno accertato anche che gli organizzatori della truffa hanno intascato dai falsi braccianti quasi 5 milioni di euro a fronte delle false attestazioni sulla base di un vero e proprio tariffario, una truffa che per volumi e numero di persone coinvolte è una delle maggiori consumate in Calabria ai danni dell'INPS. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E da truffa a truffa, la truffa ai danni della Carige di Genova, ci sono una decina di altri indagati nell'inchiesta che ieri, vi ricordate, ha portato all'arresto dell'ex presidente di Carige e vicepresidente dell'ABI, l'Associazione Banche Italiane Giovanni Berneschi, e di altre 6 persone. Le ipotesi di reato per i nuovi indagati riguardano il falso in bilancio e l'ostacolo all'attività di vigilanza. Berneschi sarà intanto sospeso dal CDA, dal Consiglio di Amministrazione delle Controllate del gruppo genovese di Carige, dove ancora siede. Non decadrà invece dalla carica in ABI perché non c'è una sentenza. Così ha spiegato il presidente dell'Associazione delle Banche, Antonio Patuelli. Parliamo di stipendi, la crescita delle retribuzioni diventa sempre più debole, ad aprile ha toccato proprio il fondo, l'aumento è stato dell'1,2% degli stipendi registrato dall'Istat, è il più basso da quando sono partite le serie storiche, cioè queste rilevazioni partite dal 1982. Scende però l'inflazione e dopo cercheremo di capire in cosa consiste questo paradosso. Però intanto passiamo alle notizie dall'estero, l'Ucraina va verso le elezioni, anche lì si vota il 25 maggio e Putin alza la voce e dice è in corso una guerra civile. È avvenuto un colpo di Stato sostenuto dai partner americani ed europei. Così il presidente russo Vladimir Putin punta il dito contro l'Occidente, colpevole a suo dire di aver causato in Ucraina una vera guerra civile senza quartiere. Intervenendo al forum economico di San Pietroburgo, il capo del Cremlino si è detto anche certo che eventuali sanzioni contro la Russia avranno un effetto boomerang sui paesi che le impongono. Duro contro l'Occidente anche il ministro degli esteri Lavrov, che ad una conferenza sulla sicurezza a Mosca ha accusato Stati Uniti ed Europa di pericolosità pericolosa megalomania. Intanto è salito a 18 il numero dei soldati di Kiev morti nell'attacco dei filorussi contro un posto di blocco nella regione di Donetsk, una trentina i feriti. Il tutto a due giorni delle elezioni presidenziali in programma domenica in Ucraina, il cui risultato la Russia promette di rispettare. L'Europa vigilerà sulla correttezza di questa tornata, ha detto la portavoce UE Catherine Ashton, secondo la quale elezioni libere e trasparenti sarebbero un passo avanti verso il ripristino della sicurezza e della stabilità in Ucraina. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dall'Ucraina alla Turchia, ancora scontri di piazza a Istanbul, 2 morti e 10 feriti in meno di 24 ore. Uomini che corrono per le strade e adesso 2 nuove vittime. Non dorme tranquilla la Turchia, che dopo i 301 morti della miniera di Soma torna a scendere in piazza contro il governo di Erdogan e la polizia. Ragazzi con lo zaino contro agenti con la pistola. A scatenare la rabbia la notizia della morte di un trentenne. L'uomo stava partecipando a un funerale vicino al luogo delle proteste quando è stato colpito alla testa. Proprio in quel momento la polizia sparava in aria per disperdere i manifestanti. L'incidente, avvenuto ieri nel quartiere popolare di Istanbul, ha dato il via alle agitazioni di oggi. Altri 10 agenti sono rimasti feriti e uno di loro non è sopravvissuto. Un assalto a una macchina della polizia a metà mattina è rimasto senza conseguenze, ma a Istanbul la battaglia resta pronta a esplodere dietro ogni angolo di strada. Lucia Maffei, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora sulle notizie estere, un aggiornamento quindi sulla situazione in Thailandia. Dopo la proclamazione del 12° colpo di Stato dalla fine della monarchia nel 1932, la situazione sembra tutto sommato, diciamo così, tranquilla. Era stata convocata dall'esercito thailandese insieme ad altri esponenti politici in un complesso militare, ma da questa mattina non si ha più traccia di Shinawatra e dei suoi familiari. Nel giorno dopo il golpe militare per l'ex premier thailandese destituita 2 settimane fa, prima è scattato il divieto di espatrio, poi la deportazione in un luogo segreto. Il generale Prayut, che ieri ha annunciato il colpo di Stato, ha messo 6 ufficiali di alto rango nei posti chiave del paese, chiedendo di realizzare un piano di riforme prima di indire nuove elezioni. Nonostante il golpe sia avvenuto senza violenze, in tutto il paese è scattato il coprifuoco e la capitale è sotto stretto controllo dei militari. L'ambasciatore italiano a Bangkok, a Radio 24, rassicura sulla sicurezza dei 9.000 italiani residenti in Thailandia. Uno dei primi pensieri delle forze che hanno preso il potere è stato quello di tranquillizzare gli stranieri, dicendo loro che è soltanto una questione di ordine pubblico, che non c'è nessuna connotazione xenofoba nei confronti di stranieri. Naturalmente bisogna stare attenti, il coprifuoco impone degli orari, impone delle attenzioni, i turisti spesso vanno a farsi fotografie accanto ai militari, ecco, quelle sono atteggiamenti che vanno accuratamente evitati. Intanto continuano le proteste delle camicie rosse, che minacciano rappresaglie se non si dovesse andare presto a nuove elezioni. Marisa Labanca, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torniamo in Italia per parlare della commemorazione delle stragi del 92. Il presidente del Senato Piero Grasso e il ministro dell'Interno Angelino Alfano hanno reso omaggio appunto alle vittime di quelle stragi, di Capaci, di Via D'Amelio, cioè Falcone e sua moglie, Borsellino e le scorte, gli uomini e le donne delle scorte, deponendo una corona nella caserma Lungaro a Palermo e osservando un minuto di silenzio. Presenti diverse autorità e poi il messaggio di Napolitano alla Fondazione Falcone, ha detto: la penetrazione delle associazioni criminali nel mondo degli affari e dell'imprenditoria è un fenomeno preoccupante, questo lo si coglie ogni giorno praticamente. Poi a Palermo sono arrivati ragazzi da tutta Italia in ricordo di Falcone e Borsellino, arrivati da tutto il paese con la nave della legalità. Per chiudere il ciclismo, Marco Canola ha vinto allo sprint la 13ª tappa del Giro d'Italia. Rigoberto Uran mantiene la maglia rosa. Vedo che voi mantenete alto l'impegno di riflettere, di scrivere sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666 sms su diciamo il quesito che vi ho lanciato questa sera. Secondo voi questo voto del 25 maggio di domenica, che riguarda le europee, avrà una qualche influenza sugli equilibri libri politici italiani, quindi sulla politica interna? Viabilità, voi intanto pensateci. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Riprendiamo allora, quindi una volta riassunta la giornata, adesso vi entriamo nel vivo di alcuni argomenti, naturalmente prima di tutto sul voto di domenica, sulle europee, la campagna elettorale. Vi ho dato un po' un assaggio delle ultime battute, insomma, dei 3 leader principali dei partiti e degli schieramenti italiani. Adesso prima di salutare la prima ospite questa sera, vi ricordo, se avete acceso in questo momento, se avete voglia di risentirle, le notizie più importanti della giornata. Naturalmente le elezioni europee, vi dicevo, rush finale nelle piazze prima del silenzio elettorale che scatta a mezzanotte. Renzi a Firenze sottolinea che gli 80 euro sono solo l'inizio. Grillo a San Giovanni, a Roma, tuona contro la peste rossa. Berlusconi a Milano avverte: se vince Grillo si rischiano disordini. E poi per l'Ilva c'è stata la sentenza per i lavoratori morti a causa dell'amianto, condannati 27 ex dirigenti anche della vecchia Italsider. In Ucraina ancora morti, ancora sangue, e Putin accusa è guerra civile. A Palermo sono state ricordate e commemorate le stragi del 92 in cui morirono Falcone e Borsellino. E poi per lo sport, per il ciclismo, 13ª tappa del Giro d'Italia, vinta da Canola, la maglia rosa rimane comunque a Rigoberto Uran. Allora, vi ricordo brevemente, questa è una notizia di servizio che voglio darvi, che è utile. Domenica, abbiamo detto, non sarà, si vota per le europee, ma non sarà soltanto il giorno delle elezioni europee, ci sarà anche delle elezioni regionali, il rinnovo dei consigli regionali di Abruzzo e Piemonte, e poi ci saranno anche per diversi comuni in Italia. 17 milioni di italiani sceglieranno il proprio sindaco tra le città Firenze, Bergamo, Bari e Sassari. E poi, invece, per quanto riguarda le europee, vi ricordo che l'elettore riceverà un'unica scheda di colore diverso a seconda della circoscrizione per le europee nelle cui liste è scritto: grigio per esempio per l'Italia nord-occidentale, marrone per l'Italia nord-orientale, rosso per l'Italia centrale, arancione per l'Italia meridionale e rosa per l'Italia insulare. Così un po' memorizzate anche i colori delle schede che vi trovate davanti, più o meno, poi magari ve lo ricordo dopo. Però adesso vorrei salutare subito la professoressa Elisabetta Gualmini, bentornata professoressa. Buonasera. Politologa, presidente dell'Istituto Cattaneo, docente di scienze dell'amministrazione all'Università di Bologna, e alla quale vorrei chiedere, professoressa, intanto un commento semplicemente sui toni, sulle melodie, ecco, di questa campagna elettorale, così, proprio una sua impressione. Sì, è stata una campagna, devo dire, con toni molto alti, con parole molto forti, che però si giustificano anche per il ritorno dei leader nelle piazze. Quindi abbiamo visto la gente andare in piazza, sia in particolare per Renzi che per Grillo, perché lo scontro è stato molto tra queste due figure, e quindi, diciamo, la piazza in qualche modo favorisce anche i toni duri, i toni diretti. Quindi probabilmente è stata così una campagna elettorale piuttosto anche violenta e dura, ma con anche degli aspetti di scontro vero che in qualche modo ha favorito la partecipazione dei cittadini. Tra l'altro addirittura ci sono studi che dimostrano che l'uso della parolaccia favorisce il politico. Ah. E quindi sì, e quindi soprattutto se usato nelle piazze e in rete, per esempio, si nota come Grillo in TV sia molto più moderato, perché è un linguaggio diretto, informale, che arriva immediatamente nel bene e nel male al cittadino. Proviamo a vedere se, vedo piccola campagna degli orrori, Crozza, un attimo, professoressa Crozza al Paese delle Meraviglie. No, è finito, sono arrivata tardi, insomma, facevo un po' una parodia di questa campagna elettorale, piccoli horror, diceva. Sì, se posso dire una cosa importante. Prego. Che forse è stata un po' così sottovalutata in questa campagna elettorale, perché lo scontro è stato così forte, e in particolare tra Renzi e Grillo, con un Berlusconi, diciamo, un po' più defilato? Perché la posta in gioco è chi si accaparra i voti del centrodestra, cioè non c'è dubbio che in quella parte dello spettro politico c'è molto frammentazione, c'è divisione, c'è un leader un po' azzoppato in queste condizioni. Quindi sia Grillo che Renzi sono a caccia non solo degli incerti, degli indecisi, ma anche del voto del centrodestra, di cui l'alzata di toni. Professoressa Gualmini, poi le chiederò appunto che incidenza può avere questo voto elettorale sulla politica interna, perché per lo più è stata giocata proprio come, certo, un test di politica interna, non solo in Italia in realtà, ma anche in altri paesi, Gran Bretagna, Francia, Grecia, eccetera. Però poi le leggo anche dei messaggi delle ascoltatrici e ascoltatori, ma prima le volevo chiedere, a proposito di chi cerca quali elettori, allora il PD è abbastanza chiaro chi cerca, anche se diceva cercano di prendere anche loro voti del centrodestra, così Grillo, ma Grillo che ha citato Berlinguer in piazza, se non sbaglio, a Firenze, e che ha detto che vuole essere in continuità con Berlinguer, con la questione morale, eccetera, a chi mirava? E alla fine che elettori ha? Perché ancora ci si chiede esattamente chi sono le persone, se si possono categorizzare, insomma, che votano per Grillo. No, Grillo sta molto attento a dire cose di sinistra e cose di destra, quindi continua a bilanciare in questo gioco molto sofisticato e deliberato di equilibrio tra le due parti politiche, quindi strizza l'occhio appunto a Berlinguer, occupa Piazza San Giovanni, quindi simboli del centro-sinistra, perché una parte dei suoi elettori vengono da lì, ma nello stesso tempo dice il sindacato va abolito, usa toni molto duri anche contro l'euro o contro l'immigrazione, tipici appunto della destra, quindi si muove esattamente tra questi due versanti dello spettro politico, e devo dire che secondo me otterrà un buon risultato, perché anche solo la conferma del 25% per un partito anti-establishment è un risultato clamoroso nel nostro paese, secondo me perché ha perso alcuni elettori che aveva preso nelle politiche del 2013, ma ne ha guadagnati degli altri nel corso del tempo, quindi otterrà sicuramente un buon risultato. E dice Nicola, fra i tantissimi messaggi che arrivano, poi ne leggerò qualcun altro, dice Nicola: siamo l'unico Stato europeo in cui una forza vuol far cadere il governo nel caso di successo alle europee, dice neanche la Le Pen. E infatti questo le volevo chiedere, questo è un po' il punto stasera, professoressa Gualmini, mentre il Presidente del Consiglio Renzi più volte, più negli ultimi tempi che non all'inizio della campagna, ha negato il valore politico interno del voto e ha blindato il governo, diciamo noi andiamo avanti comunque con le riforme eccetera, però evidentemente capisce qual è la posta in gioco e si gioca un po' tutto, la sopravvivenza politica, certo, col declino lui e anche Silvio Berlusconi probabilmente, no? Che sente un po' il timore, parla di rischio di disordini inquietanti se vincesse Grillo. Sì, dunque l'ascoltatore ha colto il punto. Diciamo che un po' in tutta Europa le elezioni europee sono ancora un test sui governi nazionali, non esiste ancora un elettorato europeo. Bene. L'elettore ragiona più o meno secondo le strategie che utilizza a livello nazionale. Detto questo, assolutamente non succederà e non penso che sia il caso che dopo il risultato appunto di domenica, qualunque esso sia, ci debbano essere immediatamente elezioni anticipate. Non è questo il punto. Il punto è l'impatto che ci sarà comunque per esempio sul percorso delle riforme. Facciamo un esempio: un Berlusconi al di sotto del 20%, quindi diciamo indebolito, avrà questa convenienza a regalare le riforme istituzionali a Renzi o a fare una legge elettorale che di fatto premia i primi due partiti? Si tratta di vedere, magari Berlusconi in quelle condizioni preferisce andare a votare con il proporzionale perché conserva un potere di veto. Quindi l'impatto è sulla velocità e la fattibilità delle riforme, che non è cosa da poco ovviamente, quindi fa bene Renzi a dire chiaramente non c'entra il risultato con il governo, però sappiamo che sulle riforme questo avrà sicuramente delle conseguenze. Vediamo, professoressa Gualmini, che cosa ancora scrivono gli ascoltatori, almeno qualche messaggio, ascoltatrici e ascoltatori, a proposito dell'incidenza che questo risultato di domenica possa avere poi sulla politica interna. Dice Nicola da Bari: assolutamente sì, avrà influenza visto che Renzi si è insediato senza passare dal voto, quindi questa è una critica. Gennaro da Napoli dice: di fatto per Renzi è il primo test elettorale, se il PD non ne uscisse bene le dimissioni sarebbero quasi dovute. Poi Luca: assolutamente sì, inciderà perché Renzi è stato nominato dalla segreteria di un partito e le riforme sono chiacchiere, litiga pure con la Corte dei Conti quando gli dicono che i conti non tornano. Io ne leggo ancora qualcun altro anche dalla pagina Facebook di Effetto Notte. Rosanna dice: non dovrebbe incidere, ma noi siamo un paese non siamo un paese normale e non mi meraviglierebbe il proseguire di urla sconsiderate. Gianfranco: solo i pentastellati lo pensano. Stefania dice: per forza che avrà influenza, è lì che si decidono i governi degli stati. Poi Giuseppe: senza ombra di dubbio, frutto dell'aver, dice, avrà incidenza, frutto dell'aver impostato la campagna elettorale europea come un referendum politico, e così altri, qualcuno non è d'accordo, ma la gran parte dice: certo, se dopo i risultati tutte le forze politiche, tutte, non ne terranno conto, vuol dire che sono proprio degli incapaci. Che dice? Ma come sempre appunto gli ascoltatori sono degli analisti molto bravi, dunque ci tengo, infatti, ma è vero che Renzi non è arrivato al governo appunto dopo aver vinto un'elezione, quindi lui deve assolutamente in questo test dimostrare di avere una legittimazione popolare forte che gli consente appunto di andare avanti con questa azione di governo e probabilmente di rinnovamento del sistema politico. Questo vuol dire fare molto meglio di Bersani nel 2013 e fare anche meglio meglio delle ultime elezioni europee del 2009, quindi volare insomma verso l'alto e ottenere un buon risultato, perché è chiaro che lui va lì a cercare quel consenso che ha avuto solo tramite le primarie. Per quanto riguarda Grillo, un risultato molto elevato, un risultato clamoroso, comunque anche confermarsi secondo partito, certamente gli darà buon gioco in Parlamento. Cioè Grillo ormai è il principale partito, il Movimento 5 Stelle è il principale partito di opposizione in Italia, viene percepito così appunto anche dai cittadini, e quindi l'opera di ostruzionismo, di opposizione appunto alle varie riforme diventerà ancora più insistente, quindi questo potrebbe ovviamente avere anche qui delle conseguenze. Non ci resta, professoressa Elisabetta Gualmini, che votare e vedere qual è l'esito. Assolutamente, siamo tutti ormai veramente curiosi. Grazie professoressa, ci aggiorniamo poi dopo allora. Assolutamente, grazie a voi. A lei, buona continuazione. Vogliamo sentire proprio un pezzettino, vediamo se Crozza lo becchiamo in un momento. Vicende giudiziarie. E dove sono i gratini? Non mi sfuggiamo più. Vespa, riprende Vespa che interviste per un fuori dalla manovra? Però no, io manovra. Certi pasticci. Guarda come muove i fogli. Non c'entra niente la Merkel. Dai, non ho fatto nessun pasticcio. Guarda come è piccato. La nostra ora è scaduta. Grazie per essere stato. Dagli un minuto, dai. In bocca al lupo. No, dagli un minuto. Vabbè, anche qui è scaduto, diciamo, in questo momento, nel senso che c'è una pausa pubblicitaria. Voi però potete continuare a scrivere i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sempre su che pensate che peso possa avere, ma mi sembra abbastanza eloquente quello che avete scritto finora, il voto europeo sulla politica interna. Oppure anche gli sms al 349-238-6666, tra pochissimo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, naturalmente tutte le sere, lo sapete, dalle 21 alle 22, riassunto della giornata fatto. Abbiamo parlato molto di politica e di europei, si voterà appunto domenica. Abbiamo parlato con la professoressa Elisabetta Gualmini, politologa e presidente dell'Istituto Cattaneo, e effettivamente ha detto che naturalmente questo sarà un test anche per la politica interna, non soltanto per l'Italia, anche per altri paesi, perché difficilmente ancora si sente l'Europa, si sente davvero elettori europei, però vedete voi naturalmente per domenica. Adesso vi ricordo, prima di passare al prossimo argomento, le notizie più importanti della giornata. La campagna elettorale, inutile dirlo, stava a San Diego, si dice, rush finale nelle piazze per i leader, e poi l'ILVA per i lavoratori morti a causa dell'amianto, condannati 27, ex dirigente anche della vecchia Italsider. E poi l'omicidio Alpi, di Ilaria Alpi, il SISDE, il servizio segreto, puntò subito sulla pista delle armi, già un mese e mezzo dopo l'agguato. Poi ci sono stati tanti depistaggi, l'informativa che lo dice è nei faldoni desecretati dal governo. Palermo ricorda dalle stragi del 92, dove morirono Falcone e Borsellino, e migliaia per i due magistrati. Napoletano dice che bisogna fermare la penetrazione della mafia negli affari. E poi ancora sangue in Ucraina, Putin accusa, dice, guerra civile, però dice rispetteremo il voto e rilancia un patto con l'Unione Europea. E fra le notizie principali di oggi, certo una delle meno gradite, c'è questa che riguarda gli stipendi italiani. La crescita delle retribuzioni diventa sempre più debole, pare proprio che ad aprile abbia toccato il fondo con un picco verso il basso. L'aumento dell'1,2% registrato dall'Istat è il più basso da quando sono partite le cosiddette serie storiche, diciamo così, le rilevazioni avviate nel lontano 1982, quindi da allora questo è il più basso, ben 32 anni fa. Ma chiediamo lumi al vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Chicco Padula. Ciao Chicco. Ciao, buonasera. Ciao buonasera. Chicco. Però ecco, intanto poi c'è da parlare dei consumi e anche dell'inflazione, perché l'inflazione allo stesso tempo è molto bassa, i stipendi sono più alti dell'inflazione, però non è comunque una buona notizia. Ci spieghi un po', partendo sì, dall'inizio. Sì, insomma. Sì, sì, vi spiego, però senti, tu mi chiami sempre per commentare brutte notizie, questo. No, diciamo, sanno che commentatore non porta pena, insomma, una volta era l'ambasciatore, adesso è un commentatore, Salvatore. Tu invece col tuo modo intelligente, gradevole e competente di fare, ci aiuti solo un pochino a essere un po' più rassicurati. Provo un po' a spiegare che cosa succede. Ci sono probabilmente almeno tre ragioni che spiegano insomma questo andamento. È il dato, diciamo, più brutto, la crescita più bassa degli ultimi 32 anni, 1,2 1% su base mensile. Direi che il motivo principale è legato alle differenze tra il settore privato e il settore pubblico, ovvero guardando bene i dati ci si accorge che in realtà le retribuzioni contrattuali orarie del settore privato crescono dell'1,6%, mentre sono quelle del settore pubblico a segnare una crescita zero, perché come tutti sanno, forse tutti ricordano, per gli statali la contrattazione è bloccata, quindi gli statali non rinnovano il contratto di lavoro dall'anno 2009-2010, quindi ovviamente diciamo questa variabile influisce poi il dato complessivo. Ad aprile le retribuzioni complessive non sono cresciute, ma in realtà quelle del settore privato sono leggermente cresciute, quelle degli statali sono completamente ferme, quindi questo è il primo elemento. Il secondo elemento è che effettivamente, insomma, è vero che la crescita è molto bassa, 1,2%, però è anche vero che siamo in un periodo di inflazione assolutamente bassa. E questo ci spieghi perché, Chicco, ma perdonami, mi pare che ci sia Casaleggio in piazza, sul palco di Grillo, evento, soprattutto per la loro umanità. A Roma. Che penso sia altrettanto importante l'intervento del cofondatore del Movimento 5 Stelle Gianroberto Casaleggio, potete continuare a seguirlo sempre attraverso il nostro servizio interattivo. Vabbè, cercavo di far sentire, visto che è una presenza abbastanza inedita questa, scusami Chicco, quindi stavi spiegando che l'inflazione era su Sky TG24, è bassa e quindi questo però dovrebbe dare un po' di respiro ai consumi, ma non è, mi pare, così. No, anzi, diciamo che probabilmente l'inflazione diminuisce anche per effetto della contrazione dei consumi, diciamo è un meccanismo che si è messo in atto e che quindi i consumi diminuiscono, chi vende tendenzialmente tende ad abbassare i prezzi per vendere di più e quindi l'inflazione però non riesce, perché oggi abbiamo anche il dato sui consumi che è un dato altrettanto bruttino, perché a marzo si è registrata di nuovo una flessione del 3,5% su base annua, che però raggiunge quasi il 7% in meno, il 6,8% in meno nel settore del comparto alimentare. Quindi tornando all'inflazione, sì. Chiaramente in un periodo di inflazione così bassa, tanto che come molti ricordano, si dice che siamo praticamente in deflazione, quindi con i prezzi che tendono ad andare verso lo zero e addirittura a scendere sotto lo zero, e questo ovviamente non è una condizione che favorisce rinnovi contrattuali molto generosi verso i lavoratori, perché appunto una delle variabili che viene considerata nei rinnovi contrattuali è quella dell'inflazione. C'è anche un terzo elemento, secondo me, che spiega un po' questo. Cioè, scusa se lo spiego così proprio in modo elementare, perché un datore di lavoro può dire: i prezzi sono già bassi, cosa ti aumento lo stipendio? Ho detto così proprio un po' rudemente, o no? Queste sono retribuzioni contrattuali, quindi riguardano i rinnovi dei contratti di lavoro. Una delle variabili che viene considerata per determinare gli aumenti è quella dell'inflazione programmata, ma se l'inflazione è molto bassa, ovviamente i ritocchi contributivi tenderanno a essere più bassi. C'è un terzo elemento legato probabilmente al momento di crisi, laddove allora nei rinnovi contrattuali l'obiettivo delle forze sindacali è più orientato alla conservazione dei posti di lavoro, alle politiche di conservazione dei posti di lavoro, che non a quella degli aumenti retributivi. Secondo me questi sono tre ragioni, quindi gli statali che hanno la contrattazione ferma dal 2009, l'inflazione che è molto bassa e la crisi, che determinano questo andamento molto deludente delle retribuzioni contrattuali nel mese di aprile. Vogliamo sperare in maggio a questo punto? Quando ci saranno i risultati di maggio? Dobbiamo sperare in maggio, sì. Sui consumi vediamo se poi già dal mese prossimo, visto che adesso arriveranno anche questi 80 euro in busta paga, vediamo se effettivamente serviranno ancora un paio di mesi, perché le rilevazioni Istat sui consumi arrivano con qualche mese di ritardo, però vedremo se lì ci sarà, come tutti auspicano, un segnale legato a questi 6 miliardi, 5 miliardi erotti che entreranno via via, mese per mese, nelle tasche di circa 10 milioni di lavoratori dipendenti. E così andranno tu... anche agli statali in questo caso, quindi che avranno così anche loro un piccolo ritocco della retribuzione. E così tu, Chicco Padula, potrai finalmente dare una buona notizia. Se speriamo, in senso, guarda, va bene. Tu mi chiamerai. Certo, grazie, buon lavoro, Chicco Padula. Grazie, ciao. Vogliamo sentirci proprio pochi istanti di Renzi Crozza? Berlinguer, Giuseppe Berlinguer, è solo no, nostro. Allora no, non è Giuseppe. Enrico Berlinguer. Oh. Perché Berlinguer voleva fare il compromesso storico. E lei? Io mi sono storicamente compromesso con Berlusconi. Eccolo lì, vabbè. Quindi Vittorio Berlinguer, non è, Vittorio. È roba mia. Non è Vittorio, comunque. Cosa c'è? Cosa c'è? Scusi se non riesco a parlare bene. Ah, cos'è? Adesso mi riprendo. Cos'è, stanco per la campagna elettorale? No, è che stamattina dalle 8 alle 9 ho risolto tutti i problemi del paese. Addirittura. Va bene, allora lasciamo risolvere i problemi del paese e risolviamo invece eventuali dubbi di chi sta viaggiando. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E vi aggiorno anche su notizie nuove, per quanto riguarda l'Ucraina, dei media del paese parlano di un blitz di paramilitari in cui è stato ucciso il capo dei filorussi, quindi dicevamo prima nei titoli appunto che sempre continuamente spargimento di sangue c'è nel paese, adesso l'ennesimo morto, in questo caso in un blitz, il capo sarebbe dei filorussi. Poi invece per quanto riguarda le notizie italiane e sull'inchiesta su Scajola, l'ex ministro Scajola, il PM dice agevola, di questo è accusato, agevola le cosche in ambito politico imprenditoriale. E poi sulle altre notizie, naturalmente l'abbiamo detto più volte, la campagna elettorale, visto che da mezzanotte c'è il silenzio elettorale, il 25 si vota per le europee, non solo, vi ricordavo che anche per il Consiglio regionale di Piemonte e Abruzzo e diversi sindaci italiani. Palermo oggi ha ricordato le stragi del 92 in migliaia per ricordare Falcone e Borsellino. E poi vi dicevo anche della truffa ai danni dell'INPS, 3.000 denunciati in Calabria e danni per 13 milioni. Fra le notizie anche questa importante che riguarda l'ILVA per i lavoratori morti a causa dell'amianto, condannati 27 ex dirigenti anche della vecchia Italsidia. Di questo parleremo tra poco, intanto però ci concentriamo, visto che siamo proprio a un passo dalle elezioni europee, sull'Europa. C'è anche un problema linguistico nella Babele europea, nel sistema 24. L'italiano è davvero una lingua in pericolo di fronte allo strapotere dell'inglese nelle attività istituzionali? Margo Benedetti, direttore generale della Direzione Generale Interpretazione della Commissione europea, è l'uomo a capo dell'organizzazione che ha il compito di interpretare il più complesso sistema linguistico formale al mondo, quello europeo. Ci spiega che le cose non stanno esattamente così, cioè che l'italiano potrebbe essere in pericolo e che quando i nostri leader si esprimono sulla scena internazionale devono stare attenti a condividere la tutela della lingua di Dante. L'intervista di Gigi Donelli. Europa 24 notte. Lingua italiana, l'impressione che l'opinione pubblica ha avuto recentemente per una serie di episodi e di questioni appunto che riguardavano l'utilizzo della lingua nella funzione istituzionale dell'Unione Europea è che la lingua italiana sia in ritirata. È così o è un'impressione sbagliata? Sinceramente penso che sia un'impressione sbagliata, certo bisogna sempre mantenere la guardia alta, come si dice, perché il rischio ci potrebbe essere, ma l'italiano è intanto una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea come le altre 23 e poi posso assicurarle che in tutte le riunioni del Consiglio dei Ministri l'italiano è parlato e c'è facoltà di parlare italiano e di ascoltare l'interpretazione italiana. Ecco, se c'è una cosa che a mio avviso sta accadendo è che gli italiani tendono a lamentarsi appunto di questa tendenza, come dire, a non valorizzare sufficientemente l'italiano, ma sono poi i primi a non farlo, cioè l'investimento sulla lingua italiana. Come viene fatto negli ultimi anni? Guardi, non potevo bisogna dirlo meglio, perché è l'impressione che abbiamo anche noi quando purtroppo sentiamo o sappiamo di delegati italiani che vengono nelle riunioni internazionali a Bruxelles o altrove e che si esprimono, anche se avrebbero la facoltà di farlo in italiano, si esprimono in un'altra lingua, con risultati non sempre ottimi o confortanti. E dunque, quando mi chiedono ma che cosa si può fare per salvaguardare l'italiano in Europa, la mia risposta è molto semplice, è sempre quella: parlate italiano, è il modo migliore per salvaguardarlo. Ecco, è chiaro che a tutti noi piace vedere un leader nazionale che va all'estero e parla la lingua di chi ci accoglie, o nel caso delle istituzioni il ragionamento è un po' più complesso. Lei mi sta dicendo in realtà che sarebbe un'abitudine da perdere? Ma io, bisogna fare la distinzione fra un incontro bilaterale, diciamo più di cortesia, in cui è certo una ottima cosa che il nostro rappresentante sappia parlare la lingua di chi lo riceve, e d'altro canto un negoziato internazionale in cui bisogna difendere la posizione del proprio paese nel concetto comunitario, e lì c'è poco da fare. Sono rarissime le persone che riescono a difendere una posizione in una lingua che non è la loro lingua materna. E d'altra parte, quando mi chiedono se è il caso di mandare a Bruxelles delle persone, rappresentanti che conoscono le lingue, la mia risposta è sempre: ma voi volete mandare a Bruxelles il vostro miglior linguista o il vostro miglior esperto? Io vi consiglio di mandare il vostro miglior esperto e poi all'interpretazione pensiamo noi. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Tanto che si è riempita Piazza della Signoria a Firenze, dove c'è il comizio di Renzi. Sentiamo giusto un po' l'atmosfera, qualche secondo. Senza la qualità dei finanzieri non ci sarebbe stato per Dante Alighieri la possibilità di fare quel capolavoro che è la Divina Commedia. O, se ci pensate, non ci sarebbe stato per Brunelleschi la possibilità di realizzare quella cupola straordinaria, unica, lo dico. Forse sta parlando a chi lo accusa magari di essere vicino, anche con simpatia, a qualche finanziere. Comunque chiudiamola qui con la campagna elettorale e invece parliamo dell'Ilva, mentre continuano ad arrivare i vostri messaggi anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Vediamo se poi riesco a leggere ancora qualcun altro. Vi dicevo, il Tribunale di Taranto ha condannato oggi 27 ex dirigenti dell'Ilva per le morti causate dall'amianto e altri cancerogeni provenienti dallo stabilimento siderurgico. Il massimo della pena, 9 anni e mezzo, è stato inflitto all'ex direttore dell'Italsider, quando era cioè pubblica, Sergio Noce. Ma ci racconta meglio Domenico Palmiotti. Ciao Domenico. Ciao Roberta, buonasera agli ascoltatori. Capo della redazione di Taranto della Gazzetta del Mezzogiorno. Allora Domenico, spiegaci bene i contorni. La sentenza di oggi ha chiuso un processo che è durato 2 anni ed è una sentenza che fotografa quanto l'inquinamento industriale negli anni, nei decenni, abbia causato guasti profondi a Taranto, abbia causato guasti all'ambiente, malattie, decessi. Infatti la sentenza di condanna di oggi, come dicevi tu, 27 ex dirigenti dell'Ilva di Stato, ma anche dell'Ilva di Riva, sono stati condannati per omicidio colposo plurimo e disastro ambientale. Il giudice monocratico li ha riconosciuti responsabili della morte di 27 operai in un periodo compreso fra il 2004 e il 2010. Praticamente questi operai si sono ammalati e sono morti poi di mesotelioma pleurico perché sono stati a contatto con l'amianto, hanno manipolato amianto, hanno lavorato amianto senza le necessarie protezioni, senza sapere i rischi a cui andavano incontro, senza essere adeguatamente formati e premuniti rispetto ai pericoli. È un processo che, voglio dire, mette in evidenza appunto responsabilità che cominciano da lontano, dagli anni in cui 80-90, in cui l'Italsider era appunto gestione pubblica delle partecipazioni statali. Non è un caso infatti che le persone che hanno subito le condanne maggiori siano appunto i dirigenti di quell'epoca, oggi anche abbastanza avanti negli anni, sino a venire ai giorni nostri. Diciamo delle persone ancora operative, l'unico che ha ancora un ruolo evidente nella siderurgia è Pietro Nardi, oggi commissario della Lucchini di Piombino, ma in quegli anni era un dirigente dell'Ilva pubblica. Nardi è stato condannato appunto per le responsabilità riferite a quel periodo. Poi condannato anche Fabio Riva, figlio di Emilio Riva, coinvolto in tantissime vicende giudiziarie, attualmente a Londra, dove attende l'appello del ricorso contro l'estradizione, su cui la magistratura inglese ha detto di sì, perché su Riva pende un mandato di arresto europeo per un'altra inchiesta sull'Ilva, sempre partita dalla magistratura di Taranto. Quindi voglio dire, è un processo che capita, una sentenza che arriva anche a meno di un mese da un altro importante processo che si aprirà a Taranto il 19 giugno con l'udienza preliminare che riguarda il disastro ambientale dell'Ilva. E il processo che arriva a valle dell'inchiesta esplosa 2 anni fa con sequestri di impianti, arresti di persone. E su questo poi Domenico Pagnotti, poi ci aggiorneremo appunto quando ci sarà anche questo ulteriore processo e capiremo un po' che cosa ne sarà più chiaramente dell'Ilva. Domenico, io ti ringrazio intanto, grazie da Taranto. Ciao Domenico. Ciao, ciao Roberto. Adesso invece dovremmo capire, visto che manca poco, con il nostro colonnello Giuliacci, che fine settimana elettorale sarà dal punto di vista meteorologico. Colonnello. Sì, buonasera Roberto. Ciao colonnello. Ascoltatore, eccomi qua. Direi che no, sarà un fine settimana con poche nuvole, insomma, diciamo bello, decisamente bello. Domani sì, delle nuvole sui rilievi abruzzesi, moriziani, laziani, Puglia e della Calabria, qualche rovescio soprattutto in Sicilia nel pomeriggio, ma insomma poche cose, bello deciso sul resto d'Italia, temperature non eccessivamente elevate, 26-27 gradi su Puglia, Veneto, zona interna del centro, 21-25 sul resto d'Italia. Domenica ancora tempo, a parte qualche sporadico rovescio pomeridiano sulle Alpi piemontesi, sui rilievi del centro-sud, un caldo su quasi tutta l'Italia, ma con valori diciamo veramente di temperature prossime a 30 gradi sull'Emilia, il Veneto e zone interne del centro, altrove temperature tra i 23 e i 25 gradi. Quindi come vedi, insomma, un buon fine settimana. Non mi azzardo a dire come inizierà la settimana, perché se me lo chiedi ti dovrei dare una delusione. No, no, non te lo chiedo, non te lo chiedo. Rimaniamo su questo. Chi mi fermo. Grazie, colonnello Giuliacci. Chi vuole le anticipazioni, meteogiuliacci.it. Ciao, colonnello. Certo, grazie, ciao, Roberto. Buon tempo a te. Noi ci sentiamo tra pochi istanti, come sempre.